35. Zuppa di purè di piselli di grasso. Trattandosi qui di piselli da passare, non occorre siano dei più teneri. Grammi 400 di piselli sgranati possono bastare per 6 persone che pranzino alla moda, cioè con poca minestra. Cuoceteli nel brodo con un mazzetto che poi getterete via, composto di prezzemolo, sedano, carota e qualche foglia di basilico. Quando i piselli saranno cotti, gettate fra i medesimi per inzupparle 2 fette di pane fritto nel burro e passate per istaccio ogni cosa. Diluite questo composto col brodo occorrente, aggiungete un po' di sugo di carne, se ne avete, e bagnate la zuppa, la quale dovrà essere di pane sopraffino raffermo, tagliato a dadini e fritto nel burro.